Sapete già che 4500 è uguale a massa moltiplicata per 10. Per trovare la massa, vi basta quindi dividere tutte e due le parti dell'uguaglianza per 10.